This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Forever.

E siamo in diretta qua dagli studi di Radio Città del Capo, 94.7, 96.25 MHz, in diretta dagli studi di Bologna. Vediamo subito anche il numero per telefonarci, 051 24 19 10, ricordo 051 24 19 10, oppure gli sms 348 76 49 289, e oppure potete scriverci a diretta @radiocittadelcapo.it. Ma a parte queste formalità, diamo il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera. Buonasera intanto al dottor Scarpa. Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e subito un saluto particolare ai due graditi ospiti, Matteo e Marzio, che ogni tanto vengono a trovarci, giustamente, fanno bene. A parlarci di chi, Matteo, oggi? Dei Type O Negative. Beh, ci daranno man forte. Type O Negative sono un gruppo di Brooklyn che esordiva nel 1991, quindi sono perfetti per il nostro periodo. Un gruppo che ci racconta una Brooklyn diversa da quella che è diventata ora. Ora Brooklyn va quasi di moda. Se i Suicide negli anni 70 raccontavano la Manhattan abbastanza devastata dopo il crack finanziario della città di New York, beh, insomma, negli anni 80 Manhattan fu ripulita, divenne tutt'altro. E diciamo che la working class di New York si spostò in quella di Brooklyn, e tanto sottobosco venne da lì, compresi Type O Negative. Type O Negative che erano fondamentalmente espressione del cantante, bassista, compositore Pete Steele. Senza di lui Type O Negative non avrebbero avuto senso. E partiamo appunto questa volta dalla fine. Pete Steele morì circa 5 anni e mezzo fa, nell'aprile del 2010. Qualcuno forse l'ha visto in concerto, direi qua a Bologna, nel 2003. Esatto. Erano molto famosi e vendettero tantissimo all'inizio degli anni 90, soprattutto col secondo disco. Ed era una cosa stranissima, perché se ci avete fatto caso, il brano di apertura è durato più di 12 minuti. È vero che il metal in quegli anni spingeva tanto, produceva gran bei brani e gran bei dischi, e le vendite erano molto alte, ma loro addirittura arrivarono al disco di platino negli Stati Uniti, vuol dire 1 milione di copie. Non è da tutti. Esattamente. We'll be right back. Type Negative, This Is Not An Exit. Non so chi di voi li abbia mai ascoltati, però erano molto molto estremamente famosi in quegli anni, parlo del 91, e fecero addirittura il botto nel 93. E erano un disco e un gruppo, fecero dischi particolari perché mescolavano influenze che venivano sicuramente come base dall'hardcore. Pete Steele aveva suonato per anni in gruppi hardcore nell'era di New York, un genere che a New York aveva avuto tantissima risonanza, ma a New York c'era tanto altro, c'erano i Sonic Youth, c'erano gli Swans, quindi tutto il noise. Poi in quell'epoca, ne abbiamo già parlato tante volte, il hardcore si radicalizzò, divenne straight edge, abbiamo parlato di Gorilla Biscuits e tanto altro. Loro fusero addirittura elementi gotici e poi questo sintetizzatore che pochi altri avevano. E poi nel 93, dopo questo primo esordio con brani lunghissimi, quasi sinfonici, come ho accennato precedentemente, sfondarono il milione di copie, cosa che a tempi odierni non so quanti gruppi con sonorità così pesanti sarebbero riusciti ad arrivare. Esatto, il botto vero lo fecero con Bloody Kisses, che è un disco che uscì nel 1993 e arrivò a vendere all'inizio 700.000 copie, poi col tempo lievitarono sempre più in alto, sempre più in alto, e diventò il disco più venduto della loro etichetta di allora, che era la Roadrunner. E la cosa migliore di quel disco, Bloody Kisses, è che ovunque ti trovassi mentre lo stavi ascoltando ti catapultava in un altro mondo, glaciale, tetro, intrigante, popolato da ombre inquietanti e sagome di cartapesta prese dai vecchi film della Hammer o dal Frankenstein di James Whale. Pochissimi altri dischi hanno il potere di generare una visione di insieme altrettanto nitida, contagiosa e perturbante. Come i Suicide sono la più efficace rappresentazione in musica di New York, per molti versi l'unica possibile, così i Type Negative lo sono stati per Brooklyn. Attorno a loro si venne spontaneamente a creare una microscena che tuttora resta l'incarnazione irripetuta del Brooklyn Sound. Tra questi Life of Agony, che con i Type Negative condividevano batterista, casa discografica e anche il nome di tre parole, e il cui primo album, River Runs Red, era prodotto dal tastierista di Type Negative, Josh Silver, e tra l'altro anche produttore e artefice principale in studio del suono inconfondibile del gruppo. Qualche anno più tardi i Piston, dell'ultra depressivo Number One, il primo disco, anche loro prodotti da Josh Silver, che tra l'altro nel frattempo si era fidanzato con la bassista del gruppo. E i Piston vennero portati in tour dai Type Negative e ringraziati nei titoli di coda della videocassetta After Dark. Tutti questi erano gruppi che provenivano dall'hardcore, che alla furia dell'hardcore avevano sostituito la rassegnazione, il malessere, l'abuso di alcol o sostanze psicotrope nel tentativo di mettere in fuga i propri fantasmi. Nessuno ci è riuscito. I Life of Agony sono implosi su se stessi e soltanto molti anni dopo si sono riuniti. E tra l'altro il cantante ha cambiato sesso nel frattempo. I Piston sembrava ce l'avessero fatta. Venivano tenuti in palmo di mano dalla stampa europea. Per un anno la bassista era stata addirittura contributor fissa del Metal Hammer inglese. Ma a tempo un altro album e sono spariti dalla circolazione. I Type Negative, proprio nel momento di massima espansione commerciale, di massimo successo, sono implosi su se stessi e hanno pubblicato World Coming Down. Forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. She'd like to know. Minuti primi, siete sempre su Radio Città del Capo in compagnia con dei Type O Negative, e con questo brano che era, che si chiediate o no, in Heavy Rotation su MTV, non mi ricordo quale dei canali di MTV, fecero veramente il botto e arrivarono veramente al platino, come dicevamo prima, grazie anche a questi corretti che per un gruppo metal erano abbastanza strani. Esatto, poi dicevi giusto, il brano finì in Heavy Rotation su MTV. Ovviamente per finire in Heavy Rotation dovette venire reinciso completamente, un nuovo testo completamente censurato, perché dice veramente delle robe abbastanza estreme a livello concettuale. Per esempio? Per esempio che io assomiglio a Gesù Cristo. Questo è il refrain nell'ultima strofa. Ma ce ne sono un sacco. Le prime due strofe sono irriferibili. Ci sono un sacco di riferimenti anche blasfemi che nessuna TV avrebbe mai potuto trasmettere. Infatti il brano venne reinciso con il testo purgato di qualsiasi oscenità, ma il particolare più interessante era appunto questo coro, come tu giustamente sottolineavi. Era chiamato nei booklet dei loro dischi, era chiamato il Bensonhurst Lesbian Choir. Bensonhurst è un quartiere di New York e il coro di lesbiche. In realtà non c'era nessuna donna a cantare in questo coro. Erano voci bianche. Esattamente. Cioè, più o meno. Sì, più che altro la loro identità non fu mai del tutto rivelata. L'unica cosa che so per certo, perché lo lessi in un'intervista ai diretti interessati, era che alcuni di loro erano membri dei Biohazard, un gruppo anche loro un gruppo di Brooklyn e molto amici dei Type O Negative. Sì, beh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Prima il dottor Scarpa mi ha presentato, però nella confusione dell'organizzazione della puntata non sono riuscito a salutarvi. Quello che dicevi tu adesso, cioè, effettivamente è vero, vabbè, a parte il discorso della misoginia di Pete Steele, che non affronteremo in questa sede, voglio sperare. Parliamo di musica che è meglio, e c'è da dire questa cosa, che i Type O Negative, a parte le stramberie anche ingiustificabili insomma del cantante, riescono a costruire una proposta musicale parecchio interessante per gli anni. Dobbiamo ricordare che sono gli anni comunque in cui ci andava, come dire, il crossover, o meglio c'erano primi esperimenti di crossover effettivamente consistenti, nel senso che in generi estremi affini, quali l'hardcore, il metal, come il death metal, come il metal più estremo, o anche l'industrial metal, tutti i generi che nascevano più o meno in quegli anni. Più o meno significa che alcune volte alcune idee, come dire, sono nell'aria e vengono sintetizzate meglio da quella canzone meglio che un'altra. Ad esempio il gothic metal, tanto per fare un esempio, appunto, il gothic metal nasce proprio in quegli anni. Abbiamo appena sentito Christian Woman è un pezzo che oggettivamente oggi l'ascoltatore di oggi, un ascoltatore che ha conosciuto tutto l'evolversi della scena nei vari sottogeneri, di cui il gothic è uno dei tanti, riconoscerebbe Christian Woman esattamente come un pezzo gothic. Ecco, in quegli anni il gothic metal stava nascendo, c'erano i primi album dei gothic, dei Paradise Lost, appunto, gothic e Lost Paradise erano coevi. C'erano forse, non so quanto conosciuti, alcuni esperimenti norvegesi quali Theater of Tragedy, ma ad ogni modo i Type O Negative riescono a, come dire, non solo definire se stessi come una proposta, un crossover gothic anche, ma a dare degli spunti per il genere. Se ascoltate le chitarre appunto di questo pezzo e le confrontate con le chitarre, con i suoni di chitarra di gothic, dei Paradise Lost, noterete parecchie assonanze, ma anche forse più che altro gli album successivi, meno death metal dei Paradise Lost. Però insomma sono un gruppo che, come tanti altri gruppi di quegli anni, appunto, sono stati già citati Life of Agony e Biohazard, ma si potrebbero citare tranquillamente Fear Factory, Sepultura o anche Vision of Disorder per certi versi. Sono tutti gruppi che incorporano nel loro sound stili diversi di quella che era la musica estrema del momento, cioè le varie campane della musica estrema che vanno in quegli anni, cioè gli anni della, dello scoppio del death metal e del grindcore, vanno a ibridarsi in proposte interessanti. Per dire soltanto due parole appunto riguardo alla proposta dei Type O Negative, c'è sicuramente una matrice hardcore che ritroviamo appunto nella pesantezza delle composizioni, no? Nella produzione pesanti e anche nel lavoro delle chitarre, ma accostate con un gusto doom che non viene, a differenza dei gruppi per esempio death metal coevi come Obituary o Napalm Death, non viene da un'influenza dei Celtic Frost, cioè un gruppo estremo, ma viene dall'influenza di Black Sabbath, un gruppo come dire entrato completamente nelle vene degli ascoltatori di musica estrema, un gruppo quasi tradizionale potremmo dire per gli ascoltatori di quegli anni. In più c'è un'influenza che è sempre stata rivendicata da Pistil, appunto, il cantante e mastermind del gruppo, che è quella dei Beatles. La possiamo, cioè, questa credo che soltanto un ascoltatore attento la può ritrovare. Io, dal punto di vista mio, insomma, la vedo un po' nel cantato di Pistil, che forse non abbiamo apprezzato bene nei primi tre brani che abbiamo ascoltato, nei prossimi sicuramente. Ci stanno dei tentativi, insomma, di non di emulazione, ma sicuramente ispirati allo stile dei Beatles. Sicuramente quello che prendono dai Beatles è una certa idea nelle strutture creative dei pezzi. Abbiamo sentito pezzi di 15 minuti che non hanno niente di prog metal, per esempio, o di prog in genere. In genere, almeno fino a quegli anni, ma tuttora mi sentirei di dire, nel rock, che sia estremo quanto o meno, o si va nel prog oppure solo geni quali i Queen riescono a fare pezzi di più di 5 minuti con strutture così variegate, sensatamente composti. I Type O Negative magicamente ci riescono, nonostante il fatto che siano un gruppo ben più estremo dei Beatles, ma molto meno prog di tutti gli altri. Un'altra particolarità nel loro sound è che sono uno dei primi gruppi che io a memoria ricordi, devo dire, che utilizza un synth insomma, ha un membro che suona il synth e non semplicemente le tastiere. Questa cosa si sente e non si sente in realtà, perché ovviamente è un gruppo pesante, le distorsioni delle chitarre hanno la maggioranza dello spazio, insomma. Però è una caratteristica, insomma, che come dire, viene più che altro dalla scena industrial, più che altro in quegli anni, insomma, ci stanno i primi album dei Godless, dei Frontline Assembly, dei Skinny Puppies, che o sono già stati scritti o stanno per essere scritti, insomma, gli anni sono quelli, anche come dire, il synth inizia a essere utilizzato nella musica estrema, e questo effettivamente, se non una novità unica, è sicuramente una particolarità che ai tempi avevano in pochi, per esempio i Fear Factory, ma i Fear Factory non hanno mai avuto un membro ufficiale che suonasse il synth, hanno sempre avuto un synth sia da studio ma soprattutto dal vivo che li accompagnava, ma era un gruppo fondamentalmente metal, ecco, ed è una cosa che in pochi in realtà gruppi metal portano dal vivo, loro lo portavano. E niente, insomma, il discorso poi si farebbe un po' più lungo, però abbiamo deciso di rimanere nel canone degli anni fino al 93, per cui non partiremo delle svolte un po' più pop di October Rust e delle le virate, ecco, più groove, crossover, sempre mantenendo delle strutture, ecco, intrigate, ma con un attimo più di intelligibilità, insomma, senza meno fantasiose, ecco, degli album successivi. Appunto si era citato Work Coming Down, che è un grande album a mio avviso, ma non ascolteremo nulla perché Babe e il Dottor Scarpa sono inflessibili, e quindi ascolteremo un pezzo dal primo album, Babe, dal secondo album, che si chiama l'altro singolo che andò in Heavy Rotation, Black Number One, grazie al quale vendettero quello che hanno venduto. Dopo questo posso... It's All Hallows Eve, the moon is full, but will she trick or treat? I bet she will. For

Beh, per una volta diciamo anche i titoli dei brani, almeno di questi due, perché sono importanti tantissimo per il loro successo. Questo era Black Number One, era anche abbastanza facile da intuire. Un brano che anch'esso finì in Ivy Rotation e fu il secondo, era il 93, e grazie a questo disco i Type O Negative, stiamo parlando di loro, stiamo raccontando le loro gesta e tutto quello che li circondava, raggiunsero un successo stratosferico. Successo che Pete Steele non è che digeriva proprio benissimo. La Roadrunner spingeva tantissimo per avere altri due singoli del genere. La Roadrunner era un'etichetta indipendente che però all'epoca riusciva in qualche modo a mettere sotto contratto tutti i migliori gruppi metal del periodo e a macinare milionate di dischi e quindi milionate di dollari. Provate a immaginarvi la pressione che poteva avere un personaggio come Pete Steele, che nonostante i due metri e la stazza possente non è che fosse tutta questa roccia d'uomo. E nel 97 le pressioni per un nuovo, comunque negli anni successivi, che poi sfociarono nel nuovo disco del 97, divennero importanti. Assolutamente, e intanto ti devo correggere, il disco è del 99, World Coming Down. Nel 97 però ci fu forse l'apice della loro fama, perché finirono a suonare nel palco principale della Ozzfest, cioè quel festival tenuto da fortemente voluto dalla moglie di Ozzy Osbourne, la cui principale attrazione era appunto Ozzy Osbourne, e in quell'anno c'erano i Black Sabbath riformati, quindi proprio i Type O Negative vennero visti da milioni di americani e erano all'apice del successo, e Peter Steele sembrava non gradire particolarmente questo tipo di attenzione. Lui doveva suonare per 2 ore tutte le sere, anche se suo padre era appena morto e lui non aveva potuto assistere al suo funerale, e contemporaneamente alla madre avevano diagnosticato un tumore maligno e come risultato si ammala, depressione cronica, e intanto veniva continuamente intervistato con domande del tipo dimmi il posto più strano in cui hai fatto sesso o qualcosa del genere. Nel frattempo Bloody Kisses e October Rust continuavano a vendere come il pane, e la pressione che Peter Steele avvertiva sulle spalle, essendo il compositore unico del materiale del gruppo, era insostenibile, troppo per un solo uomo, anche se quell'uomo è alto più di 2 metri. E da par suo Peter Steele reagisce come può. Prima va in vacanza in Islanda, poi rilascia un'intervista a Kerrang dove dichiara di non avere il coraggio di suicidarsi. Infine, al costante abuso di vino rosso affianca, ma questo si verrà a sapere diversi anni più tardi, una passione sempre maggiore per la cocaina. La lavorazione del nuovo album ne soffre. Steele interrompe a più riprese le sessioni di registrazione. Non è soddisfatto del materiale, non riesce o non vuole consegnare alla Roadrunner il tanto sospirato singolo, Hit Single, la nuova Black Number One. Alla fine, tra rimandi continui, cambi di titolo, copertina, scaletta, nell'autunno del 1999 esce World Coming Down. Il contenuto è spiazzante. Nessuno slogan parapolitico, nessuna implicazione psicosessuale, niente strali contro neri, bianchi, suore, cicli mestruali, tutti argomenti sviscerati abbondantemente nei dischi precedenti. Nemmeno l'ombra dell'ironia che fin dai tempi del suo secondo gruppo, in realtà, perché i Carnival, il suo primo gruppo si chiamava Fallout, facevano hardcore molto canonico. E non c'era niente di tutto questo, comunque. E fino ad allora non era mai successo di trovarsi di fronte a Peter Steele così introspettivo, inerme. E il disco è un'ininterrotta confessione delle proprie paure, dei propri dolori, delle insicurezze che hanno minato una psiche molto contorta e che ora, finalmente libera da ogni condizionamento di sorta, esplode con virulenza incredibile. I testi e i titoli sono emblematici: Everyone I Love Is Dead e Everything Dies, praticamente persone e cose. Il re era nudo, l'uomo era completamente esposto e la sua fragilità era sotto gli occhi di tutti. Forse sarebbe stato giusto se World Coming Down rimanesse l'ultimo album dei Type O Negative. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

for you, my love. We'll be right back. 22-18 minuti primi, ormai siamo anche in questa volta in chiusura per This Is Not An Exit. Stiamo parlando di Type O Negative, uno dei gruppi più importanti del metal di inizio 90 e anche uno dei gruppi di maggior successo in assoluto, nonostante non avessero una major alle spalle, ma il fenomeno music business, cioè quello per il quale il cantante in primis, il frontman, insomma, diventa un'industria egli stesso in quanto compositore principale, abbiamo detto, schiaccia, deforma tantissimi musicisti, hanno mollato il colpo in vari modi negli stessi anni. Jeff Buckley, ma prima ancora molto tragicamente suo padre Tim Buckley, per non parlare di Captain Beefheart, ma ce n'è un'infinità, insomma non tutti avevano la scorza dura di Keith Richards o di Mick Jagger, che sono riusciti ad andare avanti fino ai giorni nostri abusando di ogni cosa. C'è chi anche senza abusare, insomma, non reggeva la pressione di tutto ciò. D'altronde Pete Steele stesso, appunto abbiamo detto, in un'intervista elogiava, comunque invidiava Cobain per aver pochi anni prima fatto quello che nessuno si augura di dover fare. Esattamente. E praticamente non lo farà fisicamente, gesto, esatto, in un colpo solo, esatto, ma ci penserà poi il fisico a cedere a commettere proprio quello che lui avrebbe commesso volontariamente se ne avesse avuto la forza, almeno così diceva nelle interviste. E di lì a poco, quando esce Life is Killing Me, il disco successivo, World Coming Down, e di lì a poco la Roadrunner, la loro etichetta di sempre, li scarica, perché il disco vende meno di quello che aveva venduto World Coming Down, cioè molto poco rispetto ai dischi prima. E terminato il tour di promozionale, Peter Steele si chiude in casa e concentra tutte le sue energie sul bere e sul drogarsi. Nel 2005 viene arrestato per aver massacrato di botte un tizio che ci aveva provato con la sua ragazza. Non è ben chiaro come siano andate le cose, ma pare che al processo le sue sorelle testimoniarono contro di lui. La deposizione si rivelerà determinante perché Peter Steele finisca a Rikers Island, un carcere duro, per 6 mesi, e poi, appena uscito di lì, in manicomio. E seguiranno anni di silenzio fino a ricomparire in pubblico nel 2007 in occasione della promozione di un altro disco di Type O Negative, l'ultimo, Dead Again. Rilasciando una serie di interviste agghiaccianti in cui rivela molti dettagli della sua detenzione e apostrofa tutti i membri rimasti in vita della sua famiglia come drug addicts, cioè come tossici. E la prigionia e il successivo internamento hanno lasciato segni evidenti e irreparabili. E Peter Steele è rovinato, gonfio, i movimenti incerti, un tremito costante. Gli occhi tradiscono un terrore senza nome, una tristezza senza fine. È solo l'ombra del semidio che era solo qualche anno prima, quando si era fatto fotografare nudo per il servizio centrale di Playgirl. Era l'agosto 1995 e quel numero tra l'altro si rivelò il meno venduto di tutto l'anno. Mollati dalla Roadrunner, vengono raccattati da un'altra etichetta, la tedesca SPV, che è praticamente un parcheggio per le vecchie glorie. Da anni incidono per SPV i Motorhead, incidono i Ministry, cioè gruppi che un tempo enormi e ora destinati, se va bene, a una tranquilla vecchiaia piena di dischi appena sopra la soglia della decenza e best of. Che ormai non ingannano neanche più l'ultimo dei reduci. più che un'etichetta è una casa di riposo. Dead Again è anche il primo album alla cui stesura del materiale ha contribuito la band al completo e non più soltanto Peter Steele, il che fa capire ancora una volta chi fosse il vero genio là in mezzo. Il disco è talmente brutto e le canzoni tanto sfilacciate, fondamentalmente noiose e assemblate al così buona la prima e bella lì da muovere a compassione. Con i Type O Negative torna in tour, passano anche per l'Italia per la seconda volta e ultima, alle 3 del pomeriggio a un Gods of Metal, e da lì di lì a poco Peter Steele morirà, è l'aprile del 2010. We'll be right back. siamo ai saluti. Buonanotte a tutte e a tutti. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre su queste frequenze o su questo streaming. Grazie a tutti i nostri ospiti. Ciao a tutti e a tutte, e un abbraccio particolare direi in questi giorni agli occupanti di Via Gucci, perché a Bologna fa un po' freddo. Tanto. E la casa è un diritto e vorrei ricordarlo. Ciao, buonanotte a tutti.